dell'altra Europa. L'Europa delle storie, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Questa è l'Europa che cerchiamo di raccontare ogni sabato qui all'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, sono 7 minuti dopo le 12, siamo in diretta con questo programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Subito le coordinate virtuali per poterci seguire: il nostro sito radio24.it oppure euronetplus.eu, questo portale, tante lingue diverse, tanti punti di vista diversi per seguire lo stesso percorso comune. Poi le bacheche virtuali, chiocciola Euronet Plus R24, oppure il mio account personale in Twitter e Facebook, Federico Taddia. Lì segniamo tutti i link minuto per minuto relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio. Oggi partiamo parlando di Erasmus, come abbiamo fatto tante volte. Un Erasmus che sta cambiando perché si sta aprendo al mondo. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful. Budget extra di 12 milioni di euro a sostegno di nuove opportunità per studenti universitari. Questa è una delle novità di Erasmus Plus, che si apre oltre i confini europei nella doppia direzione: studenti italiani che potranno andare a vivere un'esperienza di studio in una università extraeuropea e viceversa, quindi studenti extraeuropei che potranno venire a studiare in Italia. Una novità che è stata lanciata proprio ieri e ieri l'altro in un apposito convegno. Con noi Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ciao Sara, benvenuta all'altra Europa. Buongiorno, grazie di questo invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una novità importante, una piccola rivoluzione in quella bellissima avventura che è l'Erasmus. Sì, senz'altro, appunto questa bellissima avventura va oltre, getta il cuore oltre l'ostacolo, e proprio in questo periodo in cui diciamo assistiamo a un momento di chiusura, di scetticismo anche nei confronti dell'apertura verso stranieri eccetera, Erasmus conferma questo suo obiettivo che è il dialogo interculturale, la conoscenza di lingue, di mondi diversi, e va oltre l'Europa. Ieri a Milano abbiamo dato avvio a questa nuova opportunità, che appunto dare la possibilità agli studenti italiani di fare un'esperienza di studio all'estero, non solo in Europa ma nel mondo, e viceversa fare in modo che i nostri istituti, le università italiane, siano poli di eccellenza e di attrazione per studenti che vengono da tutte le parti del mondo. Sara, quali sono i numeri? Di quanti studenti più o meno parliamo? Ma per questo anno, quindi per il 2015, l'Italia appunto ha a disposizione 12 milioni di euro, che corrispondono a circa 1.800 borse di studio tra studenti italiani in partenza e quelli che le università accoglieranno. Senz'altro diciamo il numero non è così alto, ma è un inizio. Dobbiamo ricordarci che il programma Erasmus ormai ha una storia che dura da 27 anni. All'inizio i numeri erano piccoli, adesso diciamo per esempio ogni anno mandiamo fuori circa 26.000 studenti italiani, quindi diciamo è un inizio ma che ha delle prospettive future di grande sviluppo. Sara, abbiamo sempre detto che l'Erasmus è una delle colonne portanti, una delle spine dorsali di questa Europa. L'esigenza di andare oltre, quindi di aprirsi al mondo, da cosa nasce? Non bastano più le università europee come stimoli, come competenze, come qualità? No, l'Europa rimane, diciamo, il centro e l'obiettivo, diciamo, l'Europa è la nostra casa e quindi è soprattutto il discorso di rendere questa Europa attrattiva nei confronti degli altri paesi, per cui è un attraverso la mobilità, attraverso gli scambi e quindi arricchire la nostra casa, appunto la cultura europea, quindi aiutare anche i nostri istituti a innovarsi e al tempo stesso dare anche ai nostri ragazzi, ai nostri studenti altre opportunità. E poi in fondo non è che possiamo soltanto, cioè l'Europa vive in un mercato globale, quindi le relazioni dell'Europa rispetto anche a tutti gli altri paesi. Tra l'altro hai toccato un punto importante, perché quando si parla di Erasmus si tende a mettere l'accento e a sottolineare l'esperienza di vita che comunque lo studente va a passare all'estero, e magari invece passa in secondo piano il valore aggiunto che può acquisire l'università che ospita lo studente straniero. Questo sempre, diciamo, sia quando ad esempio un istituto, un'università italiana ospita altri studenti europei, ma altrettanto, quindi a maggior ragione, quando avrà questa opportunità di ospitare studenti da tutto il mondo, diciamo, è una sfida che l'istituto si trova ad affrontare, una sfida di innovazione didattica, di diciamo, arricchimento dei curricula, dei programmi offerti, e quindi magari anche gli stessi che vengono fatti magari in italiano possono essere fatti in altre lingue, in inglese, quindi diciamo vengono messi in moto tanti meccanismi che sono a favore dell'innovazione del sistema di istruzione, e questo è uno degli obiettivi del programma. Le università italiane a tuo parere sono pronte, ma anche proprio dal punto di vista burocratico e dell'informazione, per questo upgrade? Ma io ieri l'altro ho visto un grande interesse, una grande partecipazione, diciamo, gli istituti che sono dentro il circuito Erasmus sono moltissimi, sono 230 e sono sempre più in crescita i numeri, senz'altro c'è ancora qualche ostacolo, ma c'è molta volontà, e ovviamente noi come agenzia nazionale siamo chiamati anche a rimuovere quegli ostacoli che possono esserci da questo punto di vista, dal punto di vista delle procedure, della burocrazia, eccetera. www.indire.it oppure www.erasmusplus.it per tutte le informazioni. Esatto. E noi siamo esatto. Qui pronti a ospitare anche i primi studenti italiani che andranno extra Europa e anche i primi studenti extra Europa che arriveranno in Italia. Perfetto. Per raccontare dal vivo questa esperienza. Grazie davvero Sara, buon Bellissimo. Lavoro. Grazie, arrivederci. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Concorso musicale del Fondo Sociale Europeo. Avete una band musicale emergente? La Regione Umbria vi offre un lavoro. Con il concorso musicale European Social Fund, European Social Sound, l'ente umbro intende ampliare la visibilità e il ruolo dell'Unione e promuovere le attività del Fondo Sociale Europeo. Il bando è rivolto alle band emergenti composte da un minimo di 2 persone che presentino canzoni inedite. Il premio finale consiste nella distribuzione in 5.000 copie del brano vincitore, la realizzazione di un videoclip e la sua promozione attraverso la rete nazionale e internazionale delle radio universitarie. Il termine per la presentazione delle domande è il 30 gennaio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato europeansocialsound.it. Uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata. Con queste parole di Fabrizio Moro, questo è Pensa. Entriamo nel prossimo argomento. Parliamo di mafia, parliamo di educazione alla legalità, una questione sempre più europea, anche se troppe volte si tende a nascondere questa cosa. È molto più comodo pensare alla mafia come a un qualcosa di settoriale, a un qualcosa di locale, a un qualcosa di made in Italy. E a Berlino è stato organizzato un corso, si intitola L'espansione del fenomeno mafioso tra spirito di conquista e rimozione, e promosso dall'associazione berlinese mafia Nine Danke, che già abbiamo conosciuto qui all'Altra Europa. C'è il sostegno di Erasmus Plus, della Commissione Europea. E un corso lungo, un corso intensivo, proprio per raccontare che cos'è la criminalità organizzata. E il docente Nando Dalla Chiesa, professore di sociologia della criminalità organizzata presso l'Università Statale di Milano e presidente onorario di Libera. E Nando Dalla Chiesa è qua con noi. Buon sabato, Nando. Buongiorno a voi. È un corso che è già iniziato l'8 gennaio, si è inaugurato. Qual è la prima reazione, un primo commento a caldo a una settimana dall'inizio delle lezioni? Che percezione ha avuto in queste prime ore di docenza? Ma è una percezione di grande attenzione. Ci sono studenti tedeschi, ci sono anche borsisti, ricercatori italiani in Germania, ci sono giornalisti o esponenti di associazioni tedesche che amano l'Italia, ecco, direi, prima ancora di essere interessati alla mafia, e che però sanno bene che il fenomeno riguarda anche il loro paese e sono interessati a capire come mai, perché, con quali meccanismi appunto di espansione arrivano e perché pesa la rimozione in Germania. Certo. Direi un'attenzione interessante, ecco, importante, anche quando abbiamo fatto una cosa alla libreria italiana l'altra sera, c'erano non solo italiani, c'erano anche tedeschi a sentire. Quindi sicuramente una nuova consapevolezza sollecitata non solo dai fatti di cronaca, ma proprio da una cultura diversa, fatta anche di formazione, come l'esperienza che state facendo voi. Il nostro programma si chiama L'Altra Europa. Per costruire un'Europa delle persone, un'Europa dei cittadini, bisogna passare anche da qua, dal evidenziare quelli che sono i problemi reali come la mafia. Ma direi di sì. Io ho colto da parte degli studenti, dei ricercatori, diciamo dei giornalisti tedeschi, la richiesta alle proprie autorità di essere più sensibili, di non rimuovere. Negli interventi che vengono fatti spesso si coglie questo disagio di comprendere e di vedere però una rimozione che si presenta in tante forme, nelle mancanze legislative, nelle dichiarazioni pubbliche che vengono fatte, nella sottovalutazione di un fenomeno che si va espandendo anche dove prima non c'era, per esempio nella Germania dell'Est. Credo che stabilire delle reti, dei collegamenti, mettere insieme esperienze anche educative e formative sia molto importante. Per questo credo che questa esperienza della Humboldt all'Università di Berlino sia la premessa di qualche cosa di più grande che si può costruire. Ecco. Quanto giocano gli stereotipi o i luoghi comuni o anche l'immaginario creato dal cinema, dalla letteratura nel raccontare la verità? Ma gli stereotipi pesano tanto perché si pensa a qualche cosa che riguarda o società arretrate, contadine, oppure che riguarda oggi, grazie ai proventi del narcotraffico, il mondo della finanza, quasi che la vita quotidiana reale non ne sia coinvolta. In Germania poi pesa sicuramente lo stereotipo degli italiani, perché il problema non sono i siciliani, i calabresi, che sono i nostri stereotipi, sono gli italiani. E allora trovo interessante che siano proprio tutti gli italiani a mettere in guardia, a portare una cultura più attenta e più consapevole. Ieri c'è stata la proiezione, se non erro, dei 100 passi. No, lei c'era? Rappresenta... Certo che c'era. Sì. Così un commento, come che reazione ha avuto? La reazione è stata in due passaggi, una di grande commozione nello scontro tra padre e figlio, tra Peppino Impastato e il padre, sì, che ricordiamo era un mafioso legato a Don Tano Badalamenti, a Cinisi. L'altro picco di attenzione l'ho colto nel dialogo sulla bellezza, quando si dice la mafia distrugge la bellezza, ecco, una cosa a cui in genere non si pensa. Si pensa al diritto, si pensa alla giustizia, ecco, al rapporto tra la mafia e la bellezza non ci si pensa, al massimo si è attenti a quelli che sono esperienze come la terra dei fuochi, cioè l'avvelenamento del territorio, sì, ma la bellezza del territorio, anche una città come Berlino che punta sulla bellezza, questo ha colpito. È assolutamente significativo. Grazie davvero a Nando Dalla Chiesa, nannodallachiesa.it è il sito per conoscere le sue attività, oppure mafia9duncan.de per conoscere le attività dell'associazione berlinese. Il corso si conclude il 6 febbraio, quindi ancora tanta strada, in bocca al lupo per questa bella avventura. Grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Buon sabato. Europost-it. Progetto di servizio volontario europeo in Portogallo. Volete vivere un'esperienza di volontariato all'estero e siete sempre stati attratti dal Portogallo? L'Associazione Giovanile di Pinigi cerca volontari attivi, socievoli e intraprendenti per un progetto SVE sui temi pedagogia e didattica, creatività e cultura. Ai giovani selezionati verrà chiesto di supportare lo staff dell'associazione in diverse attività per un periodo di 8 mesi dal 1 maggio al 30 dicembre. Per accedere a un progetto SVE è necessario avere un ente di invio accreditato e candidarsi entro il 4 febbraio. Per tutte le informazioni visitate la pagina Facebook dell'Associazione Juvenile di Pinigi. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said were yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Stop to notice this crying at these weeping shores. Ci ha parlato dello stretto rapporto tra la terra e la legalità, tra la bellezza e la giustizia, Nando Dalla Chiesa, e questo è un bellissimo trampolino per presentarvi il prossimo ospite. Il prossimo ospite è uno dei vincitori del premio Cittadino Europeo 2014, premi che sono stati annunciati il 12 dicembre scorso, ora andranno a Bruxelles al Parlamento Europeo riunito, tutto ciò accadrà il 25 e il 26 febbraio, sicuramente vi racconteremo questa bella giornata che vedrà protagonista ben 5 realtà italiane, i cittadini di Lampedusa, Soserm, SOS Emergenza Rifiuti Milani, Libera, l'associazione Numeri e Nomi e Numeri contro la Mafia, SOS Scuola di Alveare e Cinema, e poi una rivoluzione sostenibile, quella portata avanti da la preside di un istituto scolastico in provincia di Salerno, che è Maria De Biase, che è qua con noi. Ciao Maria, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao, ben trovata, ben ritrovata. Grazie. Maria, cosa hai combinato nella tua scuola e cosa vuol dire portare avanti la propria rivoluzione nella provincia di Salerno e arrivare fino a Bruxelles, arrivare fino al cuore dell'Europa? È stata definita la rivoluzione, una rivoluzione dolce. Io sono un dirigente scolastico e ho portato nella scuola i principi della legalità, dell'ecosostenibilità e dell'attenzione ambientale. Questa è una cosa che io ho fatto in omaggio alla mia terra, che è la terra dei fuochi, dove, insomma, da dove sono andata via perché mi sembrava che tutto fosse purtroppo irreparabile. dall'idea di lavorare sempre sull'emergenza, ho pensato che avevo voglia di misurarmi con una pseudonormalità e di partire a ritroso dalla tutela ambientale, perché non avvenisse quello che è avvenuto nella mia terra. Questo l'antefatto. E nella pratica la tua scuola cos'è? Nella pratica realizziamo, io all'inizio non mi ero mica resa conto che erano così forti e d'impatto perché sono delle banalità, nel senso che ho eliminato le merendine confezionate e abbiamo cominciato, questo è uno degli esempi, a fare merenda con pane e olio, banalissimo pane e olio. E poi abbiamo eliminato tutto quello che erano i rifiuti, perché poi insomma l'antefatto vi dice che io devo stare tanto attenta alla produzione dei rifiuti, e poiché non credo che possano venire degli esempi dall'alto, ma ognuno di noi debba fare la sua piccola parte, ho portato a scuola, ho eliminato l'uso e getta. Uh-huh. Ed è stato anche questo una cosa importantissima. Poi abbiamo cominciato a costruire le nostre compostiere, prima presso la scuola, poi presso le famiglie che se ne fanno richiesta, e produciamo il nostro compost per i nostri orti. Poi questi orti hanno cominciato a produrre, quindi noi facciamo delle ecomerende con i nostri prodotti, e quindi pane e broccoli, pane scarole, tutto quello che gli orti producono. Abbiamo piantato tanti alberi da frutta per rendere autosufficienti le scuole con la frutta autoprodotta. E poi, che vi dico, l'altra esperienza bella, forte, è quella di raccogliere l'olio esausto. Mm. Una delle mie scuole è a mare, un mare splendido, meraviglioso, come nel Cilento, insomma, sapete, c'è un mare spettacolare. Eppure non veniva raccolto l'olio esausto. Noi abbiamo posizionato illegalmente dei bidoni, io dico illegalmente perché questo è un fattore importante, perché ci siamo mossi su tutte le cose ai margini della normativa. Sì. Abbiamo posizionato dei bidoni e abbiamo cominciato a raccogliere l'olio esausto. E in poche settimane questi bidoni erano stracolmi, per cui ero anche un po' disperata, insomma, che cosa ne facciamo adesso di questo rifiuto, che è anche un rifiuto speciale, no? Certo. E invece poi il territorio ci ha dato le risposte. Gli anni del luogo hanno detto che da sempre con l'olio esausto loro producevano, anticamente producevano il sapone, e questo per me è stato una cosa incredibile. Noi abbiamo cominciato a portare gli anziani a scuola a produrre sapone, abbiamo realizzato migliaia di saponette. Queste saponette non solo hanno sostituito il sapone chimico nelle scuole, quindi immaginate il risparmio per lo Stato, no? Da un rifiuto, quando se un rifiuto diventa realmente una risorsa. Poi le abbiamo vendute e abbiamo racimolato un bel po' di soldi. Tante, questi insomma, soldi, dico appunto, questi soldi immagino siano stati reintrodotti nel circolo scolastico, appunto per. No, vengono utilizzati per sostenere le famiglie in difficoltà. Ah, addirittura, quindi. E quindi noi con quel rifiuto, con quella porcheria, sosteniamo le famiglie in difficoltà, compriamo i blocchetti mensa, compriamo i libri, mm-hmm. sosteniamo dei progetti lontani in India. Progetti di solidarietà, costruiamo una scuola in Senegal, insomma la scuola, da un rifiuto. Esatto, sì. La scuola che incide nel territorio, la scuola che cambia le persone, che cambia lo spazio in cui è inserita. Questa è l'esperienza di Maria De Biase, questa è l'esperienza della scuola. Il paese è Santa Maria, dico bene? Allora, io adesso sono la dirigente di Santa Marina Policastro, sì. Ma l'esperienza è cominciata a San Giovanni a Piro, di cui perfetto. Sono ancora tuttora reggente. Ho 18 plessi soltanto. Okay. Cittadina europea 2014, tutto ciò il 25 e sì. 26 febbraio a Bruxelles, al Parlamento europeo, e ci saremo anche noi. Ciao Maria, grazie, complimenti a te. Grazie a voi. A tutte le insegnanti e gli insegnanti che con te lavorano. Ciao, buon ciao, lavoro, ciao. Grazie a voi, di nuovo. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Concorso Diventiamo cittadini europei. È aperto. aperto il concorso Diventiamo cittadini europei per giovani e scuole, organizzato dallo Europe Direct del Comune di Venezia per stimolare la cittadinanza europea attiva e consapevole. I giovani potranno cimentarsi in una prova scritta o grafica a scelta e inviare i lavori entro il 15 aprile. I vincitori verranno premiati con un soggiorno di vacanza e formazione presso la Casa d'Europa di Neumarkt in Austria. Per tutte le informazioni e per scoprire i temi del bando, visitate il sito comune.venezia.it/Europe Direct. Have you ever been up? Have you ever been down? Have you ever been lost? Have you ever been found? Have you ever been right? Have you ever been wrong? Have you come up short? Can you come along? Have you left your mark? Have you left alone? Have you seen the way? Can you come back home? Short stories, that's what we live. Ancora l'altra Europa, ancora Federico Taddia, ancora buon sabato, ancora la scuola protagonista in questa altra Europa che ci piace raccontare, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che si appoggia anche e soprattutto sulla cultura. Un'altra storia che vede l'Italia protagonista, l'Unione Europea e l'unità italiana del programma comunitario eTwinning, di cui abbiamo già parlato più volte, perché questo bellissimo programma di interazione reale e virtuale tra scuole comunitarie e non solo ha assegnato il premio di qualità alla professoressa Donatella Calamita, docente di inglese, e agli studenti della terza A del liceo linguistico, attuale quarta A del liceo linguistico della scuola del liceo Jacopone da Todi, per il progetto Short Stories by Young Traveler. Con noi c'è Donatella Calamita, la professoressa e una delle studentesse che ha partecipato al progetto. Buongiorno Donatella, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ciao Giulia. Ciao. Ciao. Siete in viva voce? Siete no, No. Okay, no. Perfetto, si sente una strana eco. Donatella, cosa avete combinato con la vostra scuola? Ma niente, noi abbiamo fatto partire questo progetto. Per me è la seconda volta che faccio un progetto eTwinning. E sostanzialmente per invogliare i ragazzi a confrontarsi con coetanei di altri paesi europei, e quindi il progetto si basava sul fatto di scrivere delle short stories. Sì. Tra l'altro questo era un terzo anno, per cui noi anche nella programma di letteratura abbiamo Chaucer con The Canterbury Tales, e quindi rientrava anche come tipologia di writing da fare. E di fatto abbiamo coinvolto, abbiamo cercato un partner sulla questa piattaforma eTwinning, che è una piattaforma per docenti, in cui appunto ci si può trovare, incontrare, discutere, insomma, e quindi condividere anche tante metodologie didattiche. E insomma, abbiamo trovato questo partner in questa scuola di Istanbul. Sì. e quindi abbiamo fatto partire il progetto. Mm-hmm. Quindi questi ragazzi hanno di fatto scritto queste storie a quattro mani, ecco, per cui i nostri italiani hanno cominciato le storie, poi loro le hanno concluse e ne è venuto fuori. Ecco, dica. No, chiedevo, Giulia, tu sei una delle studentesse appunto che ha partecipato, nella pratica cos'hai realizzato? È partito assegnandoci ad ognuno di noi dei corrispondenti, sempre alcuni della stessa classe, e abbiamo cominciato a scrivere queste storie a metà per uno, cioè che noi italiani facciamo l'inizio. Sì. E i nostri corrispondenti di Istanbul finivano la storia. Uh-huh. Attribuendogli anche un titolo, volendo. Poi dopo il progetto si è sviluppato entrando anche in una chat fatta apposta dalle due professoresse. Mm-hmm. Dove ogni giovedì ci incontravamo verso le 7 in un orario molto specifico. dove appunto parlavamo delle nostre storie tutti insieme. E dove poi abbiamo parlato anche in privato, perché la chat era sia coinvolgendo tutte le persone del progetto, sia parlando anche privatamente con il nostro corrispondente. Quindi Giulia, corrispondente che, se ho capito bene, non hai mai visto in carne ed ossa, però è stata tutta una corrispondenza virtuale. No, purtroppo no, è stata sì, esatto. Usando, e qual è stato il valore aggiunto? Come, cosa ti ha portato come esperienza sia personale che formativa, che scolastica? Allora, è stato, diciamo, un progetto molto bello, siccome siamo sempre stati noi abituati a dei, diciamo, scambi in carne ed ossa, cioè che partiamo per un paese e andiamo dai nostri corrispondenti. Sì. Mentre invece questa volta, diciamo, è stato non di vista, ma c'è stato sempre un collegamento, un'intesa, anche se era via internet. E diciamo ha portato sempre a esporsi sempre di più nei paesi stranieri che magari non conoscevamo, e coinvolgendoci anche emotivamente, perché con questi ragazzi abbiamo avuto un buonissimo rapporto, abbiamo legato, alcuni di noi sono ancora in contatto, per esempio. E niente di che, insomma, è stata una bellissima esperienza che ci ha lasciato sicuramente qualcosa dentro. Certo. E insomma, sei stata molto, molto chiara. No. Professoressa, quindi un valore aggiunto che va al di là dell'apprendimento di una lingua. Sì, diciamo che scrivere una short story è, diciamo, bisogna seguire, cioè, una tecnica, no, di scrittura, e quindi questo era uno degli obiettivi. L'altro obiettivo era quello di migliorare la capacità di scrittura in lingua inglese, perché è chiaro che tutto questo va fatto in lingua inglese, e quindi loro hanno dovuto usare delle strutture, insomma, anche complesse, insomma, di tempi, eccetera. Però certo, sì, è stato come dire, il rapporto con coetanei di un paese che comunque viene considerato anche abbastanza lontano tuttora, sì. No? Anche oggi, cioè la Turchia comunque ci sembra un paese un po' lontano da noi, e i ragazzi di fatto, diciamo, è stato anche buffo, insomma, avere a che imparare anche questi loro nomi, quindi un po' per noi un po' strani, no? E quindi penso che sì, insomma, che loro hanno capito che, insomma, i coetanei, i giovani, i ragazzi, i teenagers sono uguali in tutto il mondo, ecco. Donatella, al di là del vostro progetto, al di là della vostra esperienza, la Commissione Europea spinge molto su e-twinning, tanti docenti anche stanno sperimentando questa piattaforma. Tanti altri sono titubanti, tu la conosci bene, che aiuto ti dà? Allora, e-twinning è una piattaforma che dà la possibilità ai docenti, appunto, di parlare, ecco, quindi docenti non della tua scuola, ma docenti di altre realtà, di altri paesi europei, quindi le didattiche possono essere diverse e sicuramente ti arricchisce, insomma. Magari, quindi è un'esperienza formativa per te, oltre, cioè di confronto, ma soprattutto di formazione. Assolutamente sì, oltre che per i ragazzi, per i docenti, ecco, assolutamente. Uh-huh. Certo, è molto, diciamo, portare avanti un progetto non è semplice, anche noi non è che abbiamo stato tutto così fiori e rose, come si vuol dire, però insomma ci sono stati anche dei problemi tecnici, perché c'è questo spazio dedicato che è Twin Space, che a volte, insomma, non funzionava, però ecco, bisogna avere la determinazione, insomma, di andare avanti e, ecco. Ricordiamo il sito, che è itwinning.net, per chi volesse conoscere questa piattaforma che promuove gemellaggi elettronici tra scuole dei paesi dell'Unione Europea, e non solo, c'è anche, avete sentito, la Turchia coinvolta, oppure il sito della scuola, che è liceojacopone.it. Queste brevi storie che avete scritto sono state pubblicate sul sito? Sì, sono a disposizione sul sito, sì. Perfetto. Ottimo, quindi c'è possibilità di leggere. Grazie davvero, professoressa, grazie Giulia, e grazie, complimenti, grazie a voi, complimenti anche a tutti i compagni di classe che hanno partecipato a questo bel grazie progetto. Mille. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Ultima fase di adesione alla rete nazionale italiana Eurodesk. Online il nuovo sito di Eurodesk, eurodesk.it, con una nuova veste grafica e nuovi canali di informazione sui temi della mobilità internazionale per l'apprendimento. Inoltre si chiuderà al 16 febbraio la seconda ed ultima fase per la presentazione delle richieste per aderire alla rete Eurodesk nel 2015. Eurodesk è un network cooperativo e basato sulla condivisione, il cui obiettivo è quello di facilitare i territori italiani ad avvalersi dei programmi dell'Unione Europea a favore della gioventù. Maggiori informazioni alla pagina eurodesk.it/adesione alla rete italiana Eurodesk. Ed è una storia di scienza, è una storia di Europa, ci piace molto raccontare questa bella contaminazione. Sappiamo che per gli scienziati l'Europa non ha confini, per gli scienziati l'Europa sì, è un'opportunità, è un grande palco, è possibilità di avere fondi che poi sono l'ossigeno che permettono di fare ricerca, che permettono di trovare quella che è, quello che è il carburante al proprio lavoro. Una storia che abbiamo scoperto a Bruxelles durante i TEDs, lo sapete, sono queste conferenze dove c'è un minutaggio, mi sembra, di 18 minuti per raccontare una storia, raccontare un'idea, raccontare una scoperta. E leggendo i TEDs di Bruxelles abbiamo conosciuto la storia di Tiziana Rossetto, professoressa di ingegneria sismica e fondatrice e direttrice della Earthquake and People Interaction Center all'University College of London. Buongiorno Tiziana, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Tutto bene? Ti ho presentato, ti do del tu, che facilito. Ti ho presentato bene? Sì, sì, molto bene, grazie. Allora, tu sei ingegnere di formazione, se non erro? Inglese, io per motivi di lavoro dei miei genitori mi sono trasferita qui in Inghilterra 22 anni fa, sì. Quindi ho fatto gli studi, gli ultimi due anni di scuola qui in Inghilterra, a Londra, e poi ho proseguito con gli studi universitari, insomma, mm-hmm. Qui ho trovato lavoro, sono sposata con un italiano stranamente qui a Londra, ma ecco, quindi sono stabilita all'estero. Ecco. E il cuore del TED era anche il cuore della tua ricerca attuale, che è la costruzione di un generatore di tsunami. Esatto. Che cos'è di fatto? Di cosa stiamo parlando? Che cos'è? Mm-hmm. Essenzialmente lo tsunami come fenomeno è un'onda estremamente lunga, sì. E tradizionalmente molto difficile da riprodurre in un laboratorio, proprio per questa sua proprietà di avere queste lunghezze d'onde estremamente lunghe. Sì. I generatori di onde normali spingono l'acqua con un pistone e sono limitati nella lunghezza d'onde che riescono a riprodurre dalla, diciamo, lunghezza del pistone, di quanto riescono a spingere l'acqua. Quindi noi stiamo lavorando con dei colleghi in un grande laboratorio qui in Inghilterra, si chiama H.R. Wallingford. Abbiamo inventato un nuovo generatore di tsunami che lavora su un principio diverso, un principio molto semplice. Praticamente consiste in una grande cisterna che sta a un lato di un canale artificiale, e questa cisterna è collegata a una valvola pneumatica e a una turbina. La turbina tira fuori l'aria, praticamente risucchia l'aria dalla cisterna, facendo salire il livello dell'acqua, mm-hmm. E con la valvola riusciamo a controllare questo livello di acqua. L'acqua poi fuoriesce da questa cisterna da un'apertura alla base e crea una grande onda. È lo stesso concetto di, per esempio, se bevi una bibita con una cannuccia e metti il dito sopra la cannuccia, fermi il livello della bibita nella cannuccia, poi togli il dito il livello riscende. Quindi okay. È esattamente questo principio, però applicato a una scala un pochino più grande. Tiziana, ma a quale scala? Quando dici che è un generatore di tsunami, dobbiamo immaginarci una piscina, una vasca da bagno, tu hai fatto l'esempio del canale. Canale artificiale che stiamo usando attualmente è lungo 70 metri. Ah, ok. Quindi sì, è abbastanza grande, ma ovviamente non riproduce, no, cioè non stiamo parlando di andare nel mare e generare tsunami lì. Ok. L'Europa ha investito molto in questo progetto, vero? Sì, un milione, quasi 2 milioni di euro, tramite la European Research Council, ho dovuto competere, diciamo, contro altri ricercatori mondiali in un bando molto molto competitivo per avere questi fondi che dureranno per 5 anni e mi permetteranno di continuare a fare questa ricerca, insomma, vedere. Poi noi guardiamo specialmente l'impatto dei tsunami sulle strutture e infrastrutture sulla costa, cioè quindi cerchiamo di capire l'impatto dei tsunami su progetti di ingegneria. Certo, e europei, nel senso, lo tsunami è un problema anche europeo, al di là dello studio? Assolutamente, assolutamente, anche se negli ultimi anni ci sono stati dei grandi tsunami in tutto il mondo, non ci dimentichiamo, non hanno affetto l'Italia o l'Europa, però non ci dimentichiamo che nel passato, nel 1755, Lisbona fu distrutta da uno tsunami, e addirittura Messina nel 1908, ci furono sui 123.000 morti a causa in Sicilia e Calabria a causa di uno tsunami, quindi siamo sì a rischio. Come hai scelto proprio questo argomento come tua materia di ricerca? Beh, come ingegnere sismico una parte del mio lavoro è andare a visitare dei luoghi che sono stati affetti da disastri e riportare le lezioni, diciamo, ingegneristiche, come possiamo costruire meglio in futuro. E infatti fui mandata dal governo inglese a vedere i danni a causa dello tsunami dell'Oceano Indiano nel 2004. Sì. E tornando da lì, insomma, ho iniziato a dire: ma quali saranno le forze di tsunami sulle strutture? E non trovavo nessuna letteratura in questa insomma, area. E quindi ho iniziato a investigare e sono entrata in questa area. Uh-huh. E a che punto siete nella realizzazione di questo simulatore? Allora, abbiamo fatto i primi esperimenti 2 anni fa. Sì. Era un più una ricerca di fattibilità: riusciamo a creare queste onde, lunghezze d'onde così lunghe? Abbiamo dimostrato di essere capaci di fare questo, infatti generiamo le onde più lunghe del mondo. E adesso a giugno rifacciamo altri esperimenti, guardando in particolare le difese costali, cioè quindi cercando di capire come reagiscono queste difese costali ai tsunami. Uh-huh. E Tiziana, per te l'Europa che cos'è oggi? In che senso? Adesso, per te è sicuramente un'opportunità, perché per quello che riguarda il tuo ambito, che è l'ambito scientifico, credo che queste risorse siano vitali. Sì, assolutamente. Uh-huh. Assolutamente. Come sappiamo tutti, i fondi di ricerca sono stati tagliati un po' in tutti i paesi, e quindi diciamo, avere opportunità di accedere a fondi dall'Europa è una lifeline, non so come spiegare, cioè cercare è vitale, insomma, è vitale per la nostra, per noi ricercatori. Uh-huh. Quindi tu non hai mai studiato, non hai mai lavorato in Italia recentemente, mi pare di capire da quello che hai detto. No, purtroppo no, ho vissuto in Italia soltanto dall'età dei 12 ai 15 anni. Ok, quindi insomma io mi sento totalmente italiana, mia madre lavorava per il Ministero degli Esteri, e per quello che giravamo il mondo, quindi mi sento totalmente italiana, però ecco, la vita ha voluto che mi stabilissi all'estero. Grazie davvero, complimenti per il tuo lavoro, per la tua ricerca, in bocca al lupo. Il prossimo step, qual è il prossimo obiettivo, il prossimo sogno, che si può anche parlare di sogni, credo, quando si fa ricerca? Ho Oddio mio, no, veramente il mio sogno è di fare ricerca che possa cambiare le vite, che possa salvare le vite umane in futuro. Non voglio rivedere una ripetizione dello tsunami che abbiamo visto in Giappone, per esempio, di recente, cioè le morti e i danni che sono causati lì. Quindi questo è il mio obiettivo, è sempre cercare di fare ricerca sia sui terremoti che sullo tsunami, che conducono a una migliore vita, una migliore resilienza. Mm-hmm. Grazie davvero a Tiziana Rossetto, in bocca al lupo per le tue ricerche. Ciao Tiziana, grazie. Ciao, ciao. Europost-it. Il padiglione UE all'Expo cerca volontari. Volete partecipare attivamente a un evento storico come Expo Milano 2015 e immergervi completamente nell'atmosfera europea? L'Unione cerca oltre 1000 giovani che vogliano condividere la propria passione per l'Europa con i visitatori del padiglione dell'Unione Europea. Partecipando al programma Volontari per l'Europa, i ragazzi saranno coinvolti in attività quali l'accoglienza e la diffusione dei contenuti del padiglione europeo. I giovani selezionati saranno impegnati per un periodo di 2 settimane tra il 1 maggio e il 31 ottobre. Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 30 anni e possedere una buona conoscenza della lingua inglese. Per saperne di più scrivete all'indirizzo mail volontarieuropa@csv.org. Questi sono i nostri Europost-it. Vi ricordo che tutto ciò lo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it, da dove poter poi riascoltare anche la puntata, oppure sulle nostre piazze virtuali, sui nostri social. Le coordinate le conoscete: Euronet Plus R24, oppure i miei personali @FedericoTaddia. Se invece volete contattare la redazione, è molto semplice, molto facile, c'è una mail ed è l'altraeuropa@radio24.it. Grazie a Miriam Lucchetti, che con me ha scritto la puntata, in redazione Claudia Schiattone, Daniele Buonamici, in assistenza oggi Paolo Corleoni, che ha giocato con i tasti in regia. L'appuntamento come sempre con l'Altra Europa è a sabato prossimo, sempre in diretta, sempre alle 12. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.